Se la primavera non è solo colori vivi, natura che rinasce, ma anche mal di testa ed allergie, notti in bianco e graminace. Penso che così sia anche l'amore, sacra perla di fuoco che amo contemplare, ma qual gelido soffio di morte quando si diverte a nascondersi, a scappare, perciò sta lontana da me, sta lontana da me, sta lontana da me. Perché quando era adolescente, un virus febbrile geneticamente modificato assai raro gli ha bloccato la crescita. La diagnosi del dottore è stata impietosa: vivere sempre adolescenti in un corpo di adulti, e quando poi si guarisce, dopo 3 giorni si muore. Stai lontana da me, stai lontana da me, stai lontana da me. E da quando da bambino ho battuto violentemente la testa sull'asfalto, frequenti amnesie dettano legge nel mio cervello. Per questo un giorno potrei amarti alla follia con poesie e fiori, e il giorno dopo trattarti come il mio peggior nemico. Forse perché andiamo troppo che ti dico: stai lontana da me! Stai lontana da me, stai lontana da me, stai lontana da me. Perché è come una stupida malattia genetica, che quando meno te l'aspetti, quando tutto sembra perfetto, dentro di me qualcosa si romperà, e può essere il cuore, il cervello o chissà cos'altro. E in quei momenti, quando tutto finisce, penso sinceramente di preferire di essere solo. Senza il pensiero di vederti piangere triste, sono io in silenzio. Lontana da me. Anche se so già che fra 2 giorni ti richiamerò gridando: amore mio, stavo scherzando, come puoi prendere sul serio i miei sogni che amo raccontarti? Amore è solo malinconia, come puoi credere davvero alle mie favole un po' macabre e di cattivo gusto? Amore mio, ritorna presto, che mi ha prescritto il dottore di respirare il tuo profumo, toccarti i capelli, se no si muore. Se no si muore.